Non possiedi una patente da vero rocker? E sei perplesso? Hai una patente da vero rocker, ma ne vorresti un'altra? E sei indeciso? Hai una patente da vero rocker, ma vuoi fare il test attitudinale per dimostrare ad Ari e le friche che non ti interessa della patente da vero rocker? Titubi? Titubi? Titubi o titubi? Insomma, rompi gli indugi, non titubare! Vieni, se hai fegato, sabato 1 marzo al garage di via Marelli 280 a Sesto San Giovanni, dal vivo! Ipei! Roberto Friccantoni! Ariel DJ! Il test attitudinale e la patente da vero rocker! Il calendario 2008, l'anno della svolta, e la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll al completo, con anche Mister Trombetta e il mitico Isaac Rizzi in persona. Non mancare per nulla al mondo. Chi manca è un titubone. Domanda dedicata al genere musicale honky tonk. Sapevate da cosa deriva il termine honky tonk? Forse, come ipotizzato dalla soluzione 1, honky tonk woman era il soprannome delle prostitute all'epoca del Far West? Risposta? Beh, potrebbe essere, ma non è la risposta giusta. E allora passiamo alla B. Honky tonk, al tempo del proibizionismo americano, era forse il termine col quale si indicavano le fabbriche abusive di gin? Questo è storico ed è esatto. E allora segnaliamo che più tardi si chiamarono con nomi simili honky tonks oppure honky tanks o tonks o punks anche le taverne e i bar con annessa sala da ballo riservate originariamente al sottoproletariato di colore, andava là, si sbevazzava qualcosa. Sì. Una bisca. Certo, si sbevazzava qualcosa anche più volentieri perché era proibito. Da lì. Quindi c'era il gusto. Arrivava il termine honky tonk, se non lo sapevate, adesso lo sapete. Tom Woman, The Rolling Stones. Sono le 8:33, minuti primi, Pane, Burro, Rock and Roll. Per l'amico Luca che deve prendere l'aereo domani ed è in super sbattimento, per le due domande che ci facevi, abbiamo un po' di risposte. Allora, qua ti consigliano di non nascondere il fumo negli anfibi perché te li fanno togliere, ma però anche tu, radioascoltatore, non ci aveva detto questo. Mi ha chiesto se poteva portare gli anfibi. Mentre per la macchina digitale, in molti dicono, dipende dal volo e dipende dal Deplian, quindi chiedi mentre stai salendo. Giro la segnalazione preziosa di Ema da Firenze che ti fa notare, lei è possibilista, cioè dice sì, si può portare, però guarda che dopo che hai fatto 2-3 scatti dal finestrino alle nuvole, cioè anche no, non è che ci sia un granché da fotografare, un po' ha ragione Ema. Tra l'altro Luca, poi facci sapere com'è andato il tuo primo volo, il battesimo dell'aria. Veloci perché è l'ultima mezz'ora di pane, burro e rock and roll di questa puntata 188 è bella ricca. Sì, tra poco andrà in onda la terza puntata di Zorrock. E allora... You just don't know why. But you know. Bello ed importante. Dice avere a me? Un contatto. Sì. Stava parlando di me? Ho titillato il suo amor proprio, DJ Ariele. Bello interessante. No, dicevo, bello interessante avere un contatto diretto. No. Un filo. Un filo costante. È piccolo? Sì, con ama le giovani metal. Generazioni. Ama è lui. Il metal è francese. È piccolo, ama il metal ed è francese. Pronto? Il nostro piccolo metallaro di riferimento. Tranquillo Francesco, siamo belli gasati stamattina. Ciao, ciao, sigla. Ciao Francesco. Sono gasato, però c'è anche un po' tutto preoccupato. Ah, sì? Che è successo? Che è successo al nostro fan di 4 anni e mezzo? Ho fatto un po'. Quasi 5, a Frick. Quasi 5, sì. Scusa, cos'è successo? Ho fatto un po' un casino. Aia. In che senso? Allora i compagnucci miei mi hanno ridato. Sì, la maglietta, una delle magliette mie preferite, la maglietta sudata da Nico McBrain, il batterista di Iron Maiden. Cioè, perdone, tu avevi una maglietta di Nico McBrain sudata e i tuoi compagni te l'avevano rubata? Sì, l'avevo presa sul lago a Vendruscoli. Sì, sì. E, praticamente solo che loro me l'avevano tagliuzzata tutta in pezzettini. No, di cui, gli infami. Dicevano così, smetta, ascolta, metal! E invece... E invece alla fine hanno ridata tutta, perché tanto ormai non gli ho rotto tanti coglioni. Però io ho provato a riattaccarla tutta. E come hai fatto a provare a riattaccarla? Mastice! Mastice, che è metal. Che tipo di mastice? Super forte! Super forte! Super forte! Sì, super forte come Tommy Lee, batterista dei Motley Crue. Senti, ma devi stare attento con quella roba, I bambini non potrebbero usarla. S'attacca, infatti. Ah, è lì il problema. Stavo a cercare appiccicare di dire voce di piccole, no? Sì. Allora mi è rimasto il gesto di corna metal. No. Sì, corna metal mi è rimasto. Cioè hai le due dita chiuse dentro. Vabbè. Esatto, su una mano. Sì. E su quell'altro mi è rimasto praticamente il pollice. Sì. E l'indice attaccati. Aia. Allora praticamente ho fatto, ci ho messo in mezzo plettro. Il plettro. Plettro, sì. E quindi così adesso suono la chitarra sempre 24 ore al giorno. Cioè non puoi non staccare il plettro. Esatto. Non attacco mai. Però hai sfruttato il Guinness dei privati. Esatto. Diciamo che fa fatica a mangiare la minestra. Ma tanto a me la minestra mi fa schifo. Esatto. È metal. Di necessità virtù. Bravissimo, esatto. Mi stacca i corna. Dai, fatti staccare anche le altre dalla guardia medica. No, il prettro no, vengo, è comodo, non mi casca mai. Vabbè, fai un po' come vuoi, ciao Francesco. Ciao, complimenti. Ma guarda che ha delle idee geniali, sì, questo bambino, Guarda che ha saputo davvero volgere, come si dice, la situazione a suo vantaggio, Complimenti. Da un dramma ne ha fatto un'occasione positiva. Un plettro per sempre sulle mani. Beh, può essere un vantaggio. Magari diventa un enorme, gigantesco, bravissimo, un virtuoso della chitarra, un chitarrista della Madonna. Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Mettetevi comodi, radioascoltatori e radioascoltatrici, fortunati, sintonizzati in questo momento sulle frequenze di Rock FM, perché sta per andare in onda in anteprima mondiale la terza puntata di Zorrock. Cos'è Zorrock? La prima radionovela di Pane, Burro e Rock and Roll, una nuova storia inedita. Roberto Fricantoni nella parte del cattivo dittatore Carlos Frick Santana, Marco Galavelli nella parte di Don Marco della Gara, meglio conosciuto come Zorrock, ed altri loschi personaggi, il tutto nella terza puntata di Zorrock. Buon ascolto. La giornata, come sempre, sembra trascorrere in maniera tranquilla nella ridente cittadina di Sweet Home, Alabama. Se non fosse che il cattivo dittatore Carlos Frick Santana, anche quest'oggi non deve essersi svegliato con il piede giusto. Ma com'è possibile? Com'è potuto accadere? Uno spende tutte le sue forze per dare il massimo alla sua cittadinanza e in cambio cosa riceve? Nulla, niente di niente. Ho speso i migliori anni della mia vita a costruire Radio Frick Santana. Ho selezionato la migliore musica possibile. E cosa vengo a scoprire? Che nessuno l'ascolta. Nessuno. I dati parlano chiaro. A parte me, sembra che nessun altro ascolti Radio Frick Santana. E perché? Per colpa del rock, maledetta musica rock. Ma che dico musica, cozzaglia di rumori. In tutta la città ascoltano solo Rock FM. Ma dico io, come si può ascoltare una radio con un nome così stupido? Non si poteva chiamare Samba FM, oppure Liscio FM, o anche House FM? Sarebbe stato più dignitoso, più sopportabile. Ma Rock FM, no! Maledizione, no! Ai ai ai ai, tutte le volte che arrivano i dati d'ascolto delle radio, la storia è sempre la stessa. Perché, diciamoci la verità, Radio Frick Santana fa abbastanza schifo. E poi, lo sapete, la popolazione di Sweet Home, Alabama, che Frick lo voglia oppure no, adora il rock. Anche un certo Don Marco della Gara, tra un videogioco e l'altro, non manca di sintonizzarsi sulla amata Rock FM. Ehi, hey Bernardo, mio fedele servitore muto, accendi la radio che c'è Pane, Burro e Rock and Roll. Come dici? No, no, io non posso staccarmi da qua, sono al 15° livello di questo videogioco che mi sta tirando matto. Accendi la radio. Non mi interessa se stai facendo la doccia, esci ed accendi la radio, non ti guardo mica. Spiace dover rovinare un così bel quadretto familiare, ma sembra che il cattivo Frick Santana ne abbia pensata una delle sue. Lo voglio grande, 72 metri per 72. Deve essere il più grande ripetitore mai esistito nella storia della radiofonia internazionale. Voglio che spari un segnale così forte da polverizzare il ridicolo segnale di Rock FM. Lo voglio in acciaio inossidabile e lo voglio pronto per oggi pomeriggio. Potrà un ripetitore gigante far passare la voglia di ascoltare la buona musica rock? E soprattutto, potrà la popolazione di Sweet Home, Alabama, ascoltare Radio Frick Santana per più di un quarto d'ora? Lo scoprirete nella terza puntata di Zorrock. Ehi Bernardo, mio fedele servitore muto, ma cosa succede alla nostra radio? Non riesco più a sentire Pane, Burro e Rock and Roll. Cosa sta succedendo? Amici radioascoltatori, ben sintonizzati su Radio Frick Santana. Iniziamo ora una retrospettiva sulla musica popolare mongola. Bernardo, musica riesco a captare solo Radio Frick Santana, ma com'è possibile? Porca paletta, senti che schifezza! Cosa? Frick ha costruito un super ripetitore che sovrasta le frequenze di Rock FM? Oddio, sono disperato! Cosa dici, mio fedele servitore muto? L'amo viola? La palta viola? La carta stagnola! Tu dici che facendo un'antenna artigianale con la carta stagnola ritroveremo il segnale di Rock FM? Proviamo! Nel mentre, negli studi di Radio Freak Santana. Ora tutti ci ascoltano! Tutti ascoltano la mia radio! Di questo passo dimenticherete presto il rock! Cosa odo? Cosa sentono le mie orecchie? Maledetto rumore insopportabile! Questa è una motocicletta! Ha indovinato, malvagio Freak Santana! Questa è la motocicletta di Zorrock! Ah, Zorrock! Benvenuto! Benvenuto anche a te! Negli studi di Radio Freak Santana! A cosa devo la tua, peraltro, spiacevolissima visita? Non credevo ti interessassi alla musica tradizionale mongola. Ti sbagli, Frick. Sono qui per spiegare a tutti quanti come fare per tornare ad ascoltare Rock FM. Bernardo, immobilizza Frick e accendi il microfono. No, no, maledetto Zorro. Amici di Sweet Home Alabama, sono Zorro. Cosa stai facendo? Costruitevi delle antenne con la carta stagnola e vedrete che tornerete a ricevere il segnale di Rock FM. Il rock vincerà sempre. Parola di Zorro. Aiuto! Tutto è bene quel che finisce è bene. Finalmente tutti possono tornare ad ascoltare Rock FM grazie alle antenne costruite con la carta stagnola. E come sempre il ringraziamento va a Zorrock. Anche per quest'oggi ci siamo arrivati integri fino alle 9 del mattino, mancano direi 3 minuti e mezzo. Faccio anche il conto alla rovescia, Sferdini, visto? Grande chiusura all'insegna degli Who, ma questa, miei cari amici, è la fine della puntata 188, un po' di appuntamenti. Venerdì sera mi trovate al garage di Sesto San Giovanni per un semplice DJ set dopo il concerto dell'Invasione degli Omini Verdi, stesso locale dove poi settimana prossima vi inviterò per le patenti da vero rocker. E questo sabato all'Auditorium Flog di Firenze mi trovate con Max De Riu, sempre per il DJ set targato Rock FM, dopo il concerto del violento Alec Empire. Puntata 188 che finisce in archivio, la troverete su RadioRockFM.com oppure su MySpace.com/paneburrofm. Mi si trova lì. Pane, burro e rock and roll. Vi ricordo la mail. La tua colazione roll. Ariel@RadioRockFM.com. Pane, burro e rock and roll. Se siete interessati al calendario 2008, l'anno della svolta. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ed è con gli applausi metaforici che sgorgano. Va bene, sgorgano. Va benissimo. Dal nostro SMS accogliamo Marco Garavelli, il grande Zorrock. Ce l'hai fatta. Puntata numero 3 è andata. Andata, e così abbiamo messo la parola a fine, no? Non c'era 2 senza 3, basta. Appunto, basta. Basta. Zorrock è finito. Io ho accontentato. Però io ti lascio qui gli SMS, così poi tu mentre fai il programma ci butti un occhio. Come li dici? Leggi. Ah, ci devo ripensare. No, se vuoi, io te li lascio qui che li vedi. Sicuramente. Vabbè. Il commento migliore è questo, per quanto riguarda il ripetitore gigante costruito da Carlos Frick Santana, ci consigliano di tenerlo, che non si sa mai, potrebbe servire. Serve. Anche le antenne con la carta stagnola, pure tutti quelle, volendo, servono sempre. Sì. Vi lascio con Marco Garavelli fino al mezzodì. Ciao.